per me oltre al cielo è credere che il senso della vita è la felicità. Io voglio vivere per me, per come sono, per come ero, dal giorno zero. Il limite per me oltre al cielo è credere che il senso della vita è la felicità. Io voglio vivere per me, per come sono, per come ero, dal giorno zero. Armato di coscienza, nel capire e scrivere sopra un papiro bianco ogni attimo e certezza. Quante volte ho detto basta con tutto questo, ma una dipendenza da cui dipendo da tempo. Cerco la luce che mi possa illuminare per emergere con qualcosa da raccontare. Raccontare la storia del solito ragazzo che scappa dai problemi usando musica e nient'altro. Tra sospiri e tosse, aspiri rime grosse nelle mentalità bruciate di chi vive di forse. Io credo che viviamo in una società dove chi deve aiutarti ti rovina e se ne va. Prova questo, non ti succede niente. Prova un'altra volta, tanto non dura per sempre. Sinceramente, preferisco ricordare per rialzarmi che dimenticare tutto e non provarci. Il limite per me oltre al cielo è credere che il senso della vita è la felicità. Io voglio vivere per me, per come sono, per come ero, dal giorno zero. Il limite per me oltre al cielo è credere che il senso della vita è la felicità. Ho una libreria di immagini, dei miei ricordi, dagli attimi migliori fino a quelli più stronzi. Ricordo il videoclip, dalle prime rime, le mine piazzate qui esplodono ed infine la cosa che mi chiedo e mi tormenta da ore: come posso cambiare le strofe e fare la stessa canzone ripetuta all'infinito, traslasciando limiti diretti con il giusto equilibrio. Scrivo per attraversare un confine, accumulando errori per poi definire un concetto sottovalutato che sto a ribadire. Toglietemi tutto, ma resta ancora in piedi a dire: il limite per me oltre al cielo è credere che il senso della vita è la felicità. Io voglio vivere per me, per come sono, per come ero, dal giorno zero. Il limite per me oltre al cielo è credere che il senso della vita è la felicità. Io voglio vivere per me, per come sono, per come ero, dal giorno zero. Riguardo i miei vecchi progetti, senza pretese, una delusione c'è stata, ci prendiamo le difese. Essere violento ed esemplare nello stesso momento, ma in realtà vorrei trasmettere un concetto. Nel caso presto, tutto dovrà finire. Mi chiedo se oltre a scrivere qualcosa mi rende felice. Dovrò pure trovare un modo per riprendermi. La speranza non c'è, quindi non so più che perdermi.